Ti piacerebbe che vi diamo la password, in diretta? Ricordando sempre che il tech block non esiste. Vai. Chi, scusa? Non esiste. Ma chi? Tech block. E però produce di tanto in tanto così delle pillole di saggezza, degli avvertimenti, delle avvertenze ai naviganti. Diffidate delle tecnologie e se proprio ci dovete fare i conti, fatecelo, fateceli i conti, ma consapevolmente. 22:43 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa, 87.9 della banda romana e laziale, www.ondarossa.info, il sito della radio. Andando a cliccare su ascolta la diretta potrete ascoltare anche la radio da ogni luogo del globo terracqueo. Ci piace dire terracqueo. Importante sempre l'appello che facciamo per sostenere Radio Onda Rossa, radio che non campa né d'aria né d'acqua. E tra l'altro questi qui, l'acqua, l'aria, sono pure cose che, per quanto naturali, che ci stanno in giro, invece sono via via sempre più mercificate. E siccome non campa d'aria, appunto, l'invito alla sottoscrizione per Radio Onda Rossa. Per trovare tutti i riferimenti, per sottoscrivere per la radio o farlo direttamente dal web attraverso il PayPal, andate sempre sul sito. www.ondarossa.info, troverete tutte le informazioni per sostenere la radio. Noi vi ricordiamo comunque sempre il conto corrente postale, così che ve lo impariate a memoria. Impariate o insegnate? Noi ve lo impariamo, voi ve lo insegnate. Voi ve lo insegnate a Vicenza. Ok. E quindi il conto corrente postale da intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Conto corrente postale 61 80 40 01, che è appunto Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma San Lollo. Onda Rossa @ondarossa.info, la mail della redazione della radio per mandare le vostre comunicazioni. 25 o'clock @ondarossa.info per mandare le mail a questo spazio, oppure fantasma@ondarossa.info. Questa sera ci riproviamo a fare una scaletta, anche se poi tutto sommato è un appendice della scorsa puntata di 25 o'clock, se avete avuto modo di ascoltarla. Quindi una lista di cose pagane o comunque ancestrali, che però vengono un po' da tutti i posti del mondo. 0649 1750, recapito telefonico. Me in the northern void, and I am white, but oh, my heart is black, black as the devils, and a soul to avoid. For southern death cults broke me on their rack. My mother taught me kneeling at her. E mentre prepariamo una corrispondenza per From each stormy day, she took me on her lap straight. Per informarvi di un'iniziativa che si terrà nel fine settimana allo Spezio 53, come già annunciato dalla radio e da noi stessi nei giorni precedenti, vi lasciamo con un tizio, uno bruciato veramente, uno che va per la sua strada e che del passato pagano della propria terra ha fatto uno dei centri della propria del proprio pensiero anarcoide e comunque sempre combattivo, Julian Cope. Questo è il psychedelic Odin, tratto dal suo Black Sheep. Cursed me and pursues me still. He forced me northwards quite against my will. Up to these outlands, to this icy place, creation's rebels move at quite a pace. We turned against him and created law, created temples when we shifted his stone. Into great circles we resisted his will, became as he was at our summits on the hill. Look at the setting sun, now God does die, and as his power wanes, so our own power grows. Let's not fear the dark, its temporary shelter from his stare. There's safety in the night, from his all-obedience glare. Flowers, trees, beasts, people will see peace until the morning. We'll see peace until the morning. We'll see peace until the morning, till it all starts again. Pronto? Pronto? Ciao. Allora, eccoci qua con Massimo. Ciao a tutti e a tutte. Qui dallo spazio. Sì, dallo spazio 53, perché appunto andiamo a parlare di questa iniziativa. Making Park at Earth Again, benefit per gli agestati del G8, almeno così recita la locandina. Sì, insomma, raccontaci un po' che cosa avete combinato. Guarda, abbiamo organizzato un'iniziativa a sostegno per le spese legali per i compagni arrestati per il G8. Ci siamo molto presi perché volevamo aderire a sostegno di questa di continuare a fare iniziative che stanno facendo in tutta Italia per i compagni. E abbiamo organizzato questa serata, sabato 5 ottobre, con dei concerti, una cena e DJ set. Cioè, qui allo Spazio 53. Bene, vogliamo ricordare che cos'è lo Spazio 53 e come ci si arriva e appunto sì, un po' la sua storia. Vabbè, ecco, così in quattro parole. Va benissimo, sì, ci troviamo in zona Roma 70, vicino alla zona Eur, a via Valentino Mazzola 13. Si può raggiungere col bus, con l'autobus 764, il 766, e c'è pure il notturno il 9. E apriamo verso le 8 con una cena e dei video, e poi via avanti verso le 22:30 inizieremo con i concerti, e in intermezzo c'è pure il DJ7 Lady Crime a sostegno per l'Italia, per i compagni. Senti, ascolta, lo Spazio 53 è comunque un'occupazione, diciamo, sta dentro un'occupazione abitativa in realtà, poi dopo. Sì, sì, quindi... sì, è vero. E per la verità siamo proprio sotto al palazzo, siamo in un palazzo di 8 piani occupato, io l'ho gestito, siamo, cioè, un'occupazione multietnica. E sotto abbiamo questo spazio che era un ex mensa che abbiamo sistemato come uno spazio sociale. E che comunque ospita concerti, insomma, periodicamente. Sì, sì, sì, sì. E adesso pure iniziativa a sostegno per i compagni. Benissimo, di questo siamo molto contenti. E del motivo, appunto, ti ho fatto quella domanda per chiederti se faceva parte di un'occupazione abitativa, perché appunto nella locandina stessa, voi stessi ricordate, diciamo, ponete, come dire, due polisi, due consigli date alla gente. Uno, di arrivare puntuali alle 22:30, proprio per il motivo di cui è vero, guarda, per non trovarci poi dei problemi magari a fare troppo tardi, così i concerti inizieranno puntuali alle 22:30. Chi vuole venire prima, ben venga. Okay? E poi anche il consiglio di lasciare a casa il cane, perché insomma molte volte in queste situazioni così un po' animate, non voglio dire de panico, insomma, però abbastanza animate, che dirci. Sì, sia per rispetto per il cane in per sé, perché stare a sentire, capito, la musica così alto volume non gli fa bene a lui, ma per lo più può pure creare un attimo dei problemini. Per evitare, cerchiamo da lasciarla a casa. Certo, se proprio, insomma, se ci riuscite, cercate di lasciare il vostro amico a quattro zampe o la vostra amica a quattro zampe. Ve lo consiglia pure la Susacchia che sta qua. Ah, ok. Va bene, sì, ragazzi. No, c'è Fantasma che ti vuole aggiungere qualcosa, probabilmente. Vai. Ok. Sì, ci stai, non lo so, lo senti? Ci sono. Sì, sì. No, no, ecco. Se dovete portare qualcosa, portate il disprezzo per le guardie, come leggiamo dalla locandina. E allora diciamola tutta, ok, va benissimo. Quello ci sta sempre, quotidiano. Va bene, okay. Allora, appuntamento quindi in via Mazzola 13, spazio 53. Vogliamo ricordare quando? Sabato? Sabato 5 ottobre. Inizio concerti alle 22:30 puntuali. Va bene, okay. Allora dai, ci saremo tutti e tutte, e okay, in bocca al lupo per lo Spazio 53 e per l'occupazione che viva sana e duratura. Va benissimo, grazie mille, un saluto a tutti i compagni. Ciao Massimo. Massimetto, okay. ciao. Ciao. Ask yourself, where's fatherland? Horns and hooves make you around. Vai! Quindi ripetiamo l'appuntamento per questo sabato 5 ottobre allo Spazio 53 con dalle 22:30 puntuali concerto dei Romanez, Ramones Tribute, All That Shit, Street Punk Hardcore, Poker Punk 77, No Confidence, Hardcore e il DJ set di Lady Crime. Quindi accorrete numerosi e numerose. Ebbene, avremo modo anche di ricordarvi nei prossimi giorni, appunto, una cosa fatta caruccia a 3 euro d'ingresso, che appunto va a sostegno dei compagni e delle compagne incarcerate per i fatti dei G8 di Genova 2001. Avremo modo, semmai più tardi, anche di leggere qualcos'altro rispetto a quello che accadrà domani, cioè della sentenza prevista per domani. Ma cioè domani si riunisce la Corte di Cassazione, non sappiamo se la sentenza appunto sarà domani o più in là. Riguardo gli altri 5 compagni e compagne che sono stati condannati praticamente in appello e a cui la Cassazione adesso appunto dovrà, diciamo, restare stralciata dalla loro posizione nel processo dello scorso anno, e appunto domani sapremo se gli verrà concessa una attenuante o meno. Comunque insomma la situazione è seria, molto seria, anche per questi 5 compagni, e non ne vogliamo più vedere in carcere. Noi ci spostiamo da queste cose purtroppo molto terrene verso ancora il misticismo che viene proprio dalle terre di Finlandia. Ed esattamente da Pori, che è il luogo dove vengono, da dove provengono i Circle. E la terza traccia del loro disco, che si chiama per l'appunto Pori, si chiama Back to Pori. We'll be right back. be able at any moment to sacrifice what we are for what we could become. Proprio dopo i Circle, o come li pronunciamo noi in maniera così non proprio esatta, Circle, dopo i Circle, i Goat, dalla Svezia, però con il pensiero alla mamma Africa, alla sua magia. Ai suoi riti. Alle sue tristezze e ai suoi sorrisi. Tutti mascherati in attesa che producano un'altra uscita. Nel frattempo se ne sono andati in quest'estate a suonare di qua e di là. In Europa e nelle Americhe. Proporre questa world music, un disco che ve lo dico a fare, che di cui sarete quasi esausti, ve l'abbiamo fatto ascoltare in tutte le salse, in tutte le condizioni, però appunto dicevamo circle, vuol dire cerchio, ma vuol dire anche circolare, ritornare, chiudere il cerchio. Ritrovare le proprie radici, andare avanti. E soprattutto la possibilità di movimento che la geometria del rotondo ci offre, movimento come quello offerto da una ruota, anzi da due. movimento come possibilità di circolazione, come opposto della prigionia. Come opposto delle frontiere, dei recinti, delle gabbie. Circolare come il nostro pianeta, in fondo, una sfera. E molte volte quelle che erano i confini, le barriere naturali, le montagne, i mari, i fiumi, in realtà erano interfacce di un mondo unico, ma con luoghi diversi. Per cui in Svezia si può suonare tranquillamente musica africana. Presidente! Presidente! Se io ho questo nuovo mica, la possibilità cioè di veto. Onorevole Schifani! Onorevole Schifani! Onorevole Schifani! Onorevole Schifani! Schifani! Onorevole Schifani! Schifani! Onorevole Schifani! Onorevole! We'll be right back. E quindi si chiama proprio così, non è che... Noi non ci abbiamo nulla messo di nostro. Si chiama così. Va bene, 25 o'clock a Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. In delirio. È un delirio di tribalità e di paganesimo prima ancora che si inventassero il potere, per come è concepito e definito. In questo mondo di gerarchie e barriere, abbiamo ascoltato quindi il profeta, Prophet per i Soulfly nel loro disco secondo del 2000, Max Cavallera e Marcello D. Poi da Roma barrato il nostro Vinicio Amici. In un lavoro del 2002. E quindi Tomahawk. Immerso in un'atmosfera di danze dei nativi americani. E comunque come li si nomini, si tende almeno genericamente a dargli sempre un nome, che è il nome che gli abbiamo affibbiato noi altri occidentali. Red Fox, Mike Patton e soci. Ritorniamo ancora in Finlandia, perché pare che poi alla fine sempre da quelle parti si finisce per tornare. Loro sono quattro fanciulle per niente remissive. The Ultra Bimbos, Mars e Racing. Marte è sorto, e sapete bene, Marte nella mitologia greca che cosa rappresentava? rising and it shines on you. Rising and it shines on you. Questo è il potere degli elfi. Elf power. Under the Northern Sky. È la traccia che ci siamo ascoltati qui a 25 O'Clock Radio Onda Rossa. Scienza e rispetto per la madre natura. Senso di appartenenza per la globalità. Erano un po' queste le voci della sapienza antica. Che passano attraverso anche le scienze ufficiali, un po' irregimentate, un po' addomesticate a quelle che sono le esigenze del mantenimento delle gerarchie sociali. Perché sappiamo bene che se Galileo andò a mettere il sole al centro dell'universo togliendoci la terra, egli più tardi abbiurò. Forse o quasi sicuramente in termini pragmatici. Now the sky is all you see, calling from above. però che la scienza sia addomesticata al potere e che entrambi, chi appunto ricerca e chi vuole mantenere i propri privilegi, molte volte si strizzano l'occhio e finiscono per andare d'accordo. Ne va di mezzo l'agnosi. Però c'è anche chi ci finisce in manicomio per aver studiato l'orgone. E questo è l'orgone accumulator, la fisicità. Yeah. di tasso. No. Dei lupini? Non la voglio quella robaccia romana. Perché non hai spuntini nostrani? Spuntini nostrani? Sì, invece di antipastini da ricchi imperialisti. Beh, non è colpa mia, non lo decido io quello che vendo. Vabbè, dammi le adenoidi numidi. Facciamo due. Due. Grazie, Reggio. Siete del Fronte Popolare Giudeo? Vaffanculo. Prego? Il Fronte Popolare Giudeo. Siamo del Fronte Popolare di Giudeo. Figurati. Il Fronte Popolare Giudeo. Quei froci. Chiedo di entrare nel vostro gruppo. Ah, fate un giro. Io non voglio vendere questa roba, è solo un lavoro. Io odio i romani più di tutti quanti voi. Ne sei sicuro? SPQR. Sono porci questi romani. Ehi, se vuoi entrare nell'FPG, li deve odiare sul serio, i romani. Li odio. Eh sì, e qua? Un sacco. Siete nostri. Senti, le sole persone che odiamo più dei romani sono quegli stronzi del Fronte Popolare Giudeo. Sì, anche quelli del Fronte Giudeo del Popolo. Sì, parola. Quelli del Fronte Popolare di Giudea. Sì, sì. Il Fronte Popolare di Giudea, tutte parola. Siamo noi il Fronte Popolare di Giudea. Oh, ma non siamo il Fronte del Popolo. Il Fronte Popolare. E che fine ha fatto il Fronte del Popolo, Reggi? Eccolo laggiù. .55 87.9 MHz di frequenza. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questa è 25 O'Clock. Quindi cambio di registro. Noi iniziamo ottobre. Come di rito. Con il discone dei Type O Negative, che è appunto October Rust. E questa è Burnt Flowers Fallen. Yeah. Sulle note dei Double Negative, diciamo, sulle note dei Double Negative ci chiamano. Pronto? Ci chiamavano per un intervento, volevano intervenire in diretta, sì. In diretta sulla tematica heavy metal, quindi heavy metal. Invitiamo a richiamare, quindi siamo pure curiosi. Sì, siamo molto curiosi. Vabbè, dai Double Negative ci spostiamo a un disco del 1990. Questo è dal secondo disco di Danzig, Luci Fugge. Ci ascoltiamo la terza traccia, che è Killer Wolf. Ci senti? Pronto? Mi sente? Sì, signore. Sì. No, io chiamavo per fare i complimenti per la trasmissione, che no, è una bella roba quella che fate. Sì, no, grazie. Dove chiami? No, è una bella roba. Guarda, io mi chiamo Giulio. Da dove chiami Giulio? Da qui da Roma o stai streaming? No, io chiamo da Roma, io qui da Roma. È un posto strano anche Roma, cioè, perché non... infatti ci siamo noi più o meno un po' nei dintorni, giusto No, no, no, ma è una bella roba. Niente, io ho chiamato per fare i complimenti per la trasmissione, perché veramente anche sta radio onda rock qui è una gran bella roba. No. Non è proprio questo, non è proprio Radio Onda Rock, però, però ci facciamo uno spottino, non ti preoccupare. Sì, sì. Vabbè, vabbè, non è questo, scusa, è il fatto che no, niente, io chiamavo perché, ragazzi, ma che cazzo stiamo facendo? Anche voi, cioè, che stiamo facendo seriamente? Seriamente a quest'ora ci rimane difficile comunque. Seriamente, ragazzi, cioè, se non vi va di fare la radio, non la facciamo, se vogliamo fare. Sai cosa? Ascolta me. Sì. Cioè, ascolta la roba. Cioè, sì. Io ho lavorato 40 anni in Menarini Breda. 40 anni in Menarini Breda. O in Menarini. No, perché. No, sì. Ho carpito un attimo se era tradito. Mi viene di darle del lei. Se era tradito con Menabrea. Ma figa, ma ragazzi, ma davvero? Cioè, niente, si può parlare però di una cosa seria, una roba seria. Sì, no, sì, siamo vai, anche una radio seria, ho detto, abbiamo difficile fino a domani così, capito? Sì, vai tranquillo. Beh, vai. Niente, io ho chiamato per dire una cosa, che è tutto bello, no? Cioè, il fatto che fate pure voi la trasmissione del rock and roll, delle sue cose, sì. Beate. Sì. Però ragazzi, qui è un'altra storia, qui ci stiamo ammazzando, qui stiamo cadendo come mosche, è una roba brutta questa. E qui voi dovete parlare alla gente, dovete fare la trasmissione, che rivoluzione dovete fare pure voi, quella dei culazzoni, con i capelli lunghi, le cose, ma ragazzi, basta, veramente, basta, cioè. Cos'è sta roba? Io ho fatto la metallurgica, quella era, capito? Cioè, diciamo, questo era il tuo intervento sulla parte metallica, nel senso che io ci ho lavorato col metallo. Ma figa, lo dici a me. L'intervento sulle rime. No, da cazzo, non lo dici a me, dai, non lo dici a me, perché io ci ho lavorato 40 anni e non era lì a mettere il disco a fare il signor fantasma e tutte le venate, no, io stavo lì a fare, sai, stavo sul pezzo, figa. Ma ci ascolti di frequente o... Adesso sì, tu sì. Mi ascolti a me. No, no, dico, te ci ascolti di frequente oppure così, ma estemporaneamente stasera? No, stavo qui, sentendo la radio, cioè non è che stavo a menar camper live a fare... cose, capito? Cioè, ma ascolti di solito metal? Ma a me non me ne frega un cazzo a me di queste robe, cioè io mi ricordo c'era un amico che faceva le stesse menate che dice voi, sì, perché i Pooh, devi ascoltare i Pooh, e poi l'abbiamo visto tutti come ce l'ha messo nel culo, capito? Cioè, mi senti? Sì, sentiamo. Non... Sì, sentiamo, diciamo, non è molto piacevole il linguaggio, perché siamo una radio antisessista. Ma qui stiamo parlando della rivoluzione, non di sto cazzo, capito? Cioè, non è che stiamo parlando... Cioè, ma non è vero, ragazzi, ma dovete fare la rivoluzione dei culattoni, ma pensate davvero che funziona così? Cioè, io metto due dischi e mi faccio crescere i capelli... ma che cazzo siete diventati scemi, ragazzi? Cioè, io ho capito la droga e il rock and roll... Ma siete impazziti, ragazzi. Cioè, io mi voglio. Io beh, no. Diciamo che almeno non siamo in buona compagnia, ecco. Un po' il mondo sta impazzendo. Se te. State in buona compagnia. Stai in buona compagnia. No, dico, il mondo tutto sta impazzendo. Insomma, è difficile oggi trovare le coordinate poi per capirci qualcosa in realtà. Ma no, senti una roba, cosa. Cioè, io ho lavorato in Menarini Breda per 40 anni, Cioè, quindi a me la voce d'avvocatino, la paglietta che viene lì e ti dice no perché te, cioè a me sta roba qui non me la frega cazzi, veramente ti dico, veramente. Cioè. Vabbè, ma cioè, scusami, sì, però volendo essere propositivo, quindi a parte. Ma propositivo cioè... un par di cazzi, ragazzi, cioè, ma spegnete sta cazzo di radio, andate un attimo nelle strade a vedere come viene la gente, quello che dice. Beh, già è importante che sentiamo a te. Ma tu ti rendi conto quanto costa? Quanto sì. Costa anche, che ne so, cioè. Ma figa, ragazzi, ma siamo impazziti qui. Quanto costa? Ma che cazzo fa? Ma parlate di che parlate voi? Di Satana, di quella roba lì? Ma Satana sta al governo e voi state a parlare. Cioè, ma voi siete impazziti, ma seriamente. Va bene, niente, no, io ti volevo solo ricordare che questa è 25 o'clock, e 25 o'clock significa un'ora rubata ai ritmi del consumo e della produzione, per cui se stiamo qui è perché abbiamo rubato quest'ora proprio a... era solo per dirti. Era solo per dirti che appunto rubiamo il tempo a ritmi del consumo e della produzione, perché ci stiamo immersi pure noi dentro il consumo e dentro la produzione. Cioè, capito? Guarda, senti, lascia perdere, guarda, capite queste cose, dovete fare le cose che dobbiamo fare, la guerra, però per fare la guerra dobbiamo sentire, che cazzo sentite voi poi? Che musica è quella là? Cioè, che roba fate anche voi? Cioè, ma no, ma io mi ricordo i tempi miei, era tutta un'altra roba, dai, cioè. C'era il gabber, c'era della gente, c'era della gente che sapeva quello che cazzo diceva. Sai, cambiano i linguaggi pure, no? Come abbiamo... Cambiano i tempi, cambiano i linguaggi, cambiano i modi di proporsi. Non cambia un cazzo, probabilmente sì. Cioè, probabilmente sì. Perché 40 anni di Menalina Breda a me mi ha insegnato una cosa, che non cambia un cazzo, capito? Cioè, altro che nemmeno il modo di parlare. Poi la metallica, che vi sentite fate sta roba, io la siderurgica l'ho fatta per davvero, ma per piacere, dai. Ma dai, vabbè ragazzi, vi saluto, cioè mi dispiace pure, non sfogo il mio, voi fate bene, per carità, un darò, okay, che semenate, però anche, cioè, va bene, cerchiamo di fare anche non le menate, dai. Oppure le meniamo. Ma vai, ma scusa, ma guarda, questa è pure uno sfogo, no? Ma tu devi. Sì, pure sì, no, ma va benissimo, no? Va benissimo. Ci fa piacere spada, comunque, no? Guarda. Cioè, vabbè. È dai. Perfettamente in tema con la tua telefonata. Ma sì. Alla fine. Dai, vabbè, ti ringraziamo. Guido, Giulio, non mi ricordo più. Giulio, bella Giulio, no, dai. No, continua ad ascoltarci malgrado tutto. Il culo me, cioè, intanto quello si chiama fantasma. Io sto parlando con il signor fantasma. Cioè, ma quando ti chiedo i documenti, Cristo, io un Dio. Cioè, ma tu gli dici che lo so, ma c'è 35.000 anni, non c'erano i documenti. Fai il favore. Cioè, fai il favore a tutti qui, no? La rivoluzione dei fantasmi facciamo. Questo plasma, ti saluto, ciao. Bella, ciao. Little boy, you're the one. Set the world to rights. Ovviamente una telefonata in diretta, ci dissociamo così dagli epiteti e dal linguaggio, però il senso era chiaro e ci ha fatto comunque, sì, piacere ricevere. Comunque noi insomma invece siamo proprio aperti. Va bene, un saluto. Va benissimo, Giulio. Saluto di chi di metallo, insomma, se ne intende. Bella, bella. She said the path you walk gonna be hard once you tread, 'cause the night is your only love, lots of girls gonna be hurt. Said it's part of your fate, 'cause you're the one. And now I know my place in this life I write, and I know the things I feel are burning deep inside. So if you wanna meet evil, dopo l'ondata metallurgica esterna. Visto che ci ascoltano anche i metallurgici. Don't be lost, we say. segnale che facciamo del bene. Questa è una produzione della Profound Lore. Da New York, loro sono gli Occultation. Questa è l'oscura Double Walker, ce la riscoltiamo da capo. E loro erano gli Oscuri Occultation, da New York, dall'album 3 and 7, e sempre dalla Profound Lore Records, etichetta canadese. Ci ascoltiamo un'altra formazione, loro sono i Dark Castle. Che anche questa volta, come di solito, passiamo dei duetti. Loro sono in due, appunto, solo chitarra e batteria. Ce l'ascoltiamo da Surrender to All Life Beyond Form, la resa di tutta la vita oltre la forma. E questa è la quarta traccia, Seeing Through Time. We'll be right back. e andiamo a chiudere questo trittico dedicato alla profound lore. Loro sono i Sub Rosa, dal disco More Constant Than the Gods. Questa è la seconda traccia, Ghosts of a Dead Empire. lunghissima traccia dei Sub Rosa di 12 minuti. Stavamo appunto considerando che, cioè, veniteci a dire il contrario. Veniteci a dire che appunto non eludiamo i ritmi produttivi, non ci distacchiamo da quello che è produttività. Se esiste una linea qui a 25 o'clock è quella del delirio. Ritornando, anche se è difficile da andare a individuare sta linea del delirio, perché nel delirio la linea è abbastanza confusa e forse nemmeno c'è una linea contorta, uno scarabocchio. Sì, siamo una sorta di astrattismo musicale. E appunto, chi mi immagina capellone, però insomma, cioè, i fantasmi non ce l'hanno i capelli, eh? E chi ci immagina capelloni? Andiamo a dedicare il prossimo pezzo, che è appunto Bang Your Head for Satan. Mi hai mandato una ciocca negli occhi, non ti agitare per cortesia. Scusa. Colpa della lacca. Quindi, siccome scapocciamo da queste parti, Bang Your Head for Satan scapoccia per Satana. E loro sono i Gehenna. Sicuri che avete scapocciato la vostra testa per Satana? Da un disco del 1996, loro sono i Gehenna, formatesi con l'intento di fare una tribute band per i Venom, poi partiti per la tangente con il loro delirio. Questo è il disco del 1996, King of the Sidewalk, il re del marciapiede. Visto che il finale si è fatto maligno, dall'Olanda, ci andiamo ad ascoltare gli Asphyx. E questa è la title track dall'ultimo disco Death Hammer. E quindi con questa base tenera tenera, delicata, per leggere invece una cosa importante, giovedì 3 ottobre, cioè praticamente oggi, ormai dal momento che abbiamo superato la mezzanotte da 39 minuti, giovedì 3 ottobre si torna a Genova, per un processo d'appello che potrebbe concludere tutta la fase processuale che è seguita alle manifestazioni del G8 di Genova del 2001. Alla sbarra ancora i manifestanti che dopo la sentenza definitiva di Cassazione dello scorso 13 luglio sono stati condannati per i reati di devastazione e saccheggio. Per 5 di loro infatti il prossimo 3 ottobre, cioè oggi, la Corte d'Appello di Genova dovrà valutare la concedibilità o meno dell'attenuante pena per aver agito per, virgolette, suggestione dalla della folla in tumulto. Nel frattempo Marina, Alberto e Jimmy sono ancora in carcere, mentre Ines è ai domiciliari. Sono anni questi in cui la magistratura usa sempre con maggior frequenza gli strumenti normativi del codice Rocco, retaggio del regime fascista, quindi ad esempio i reati di devastazione e saccheggio o quelli di attentato accanto all'arsenale normativo che si è andato via ampliando dal settembre 2001. Proprio in questo mese di ottobre a Roma inizierà il più corposo dei processi per i fatti del 15 ottobre 2011. 18 imputati dovranno rispondere di reati molto gravi, tra i quali devastazione e tentato omicidio. Sempre per i fatti del 15 ottobre 2011, altre 7 persone sono già state condannate in primo grado per devastazione. Senza contare le decine e decine di processi a carico dei NOTAV, che quotidianamente lottano contro la militarizzazione e la devastazione di un territorio, minacciato da un'opera inutile imposta contro la volontà di chi la valle la abita e non solo. A 11 anni dai fatti del G8 di Genova, a fronte dei 10 capri espiatori che sono stati condannati fino a 15 anni di carcere per devastazione e saccheggio, si contano 222 provvedimenti archiviati per le violenze e le torture commesse in strada da appartenenti alle forze dell'ordine. Non è stato possibile identificare gli autori delle violenze. Da 300 appartenenti alla polizia che sono entrati alla scuola Diaz ed hanno partecipato a quel massacro, sono rimasti tuttora fuori dal processo. Non è stato possibile identificarli anche per gli ostacoli frapposti all'indagine dalla stessa polizia. Gli appartenenti alle forze dell'ordine sono stati condannati per le violenze e le torture inflitte ai manifestanti a pene molto contenute e per molti dei condannati i processi sono stati prescritti. Alcuni di loro, ancora in servizio, hanno continuato e reiterato violenze e stupri e poi ci parlano di poche mele marce. Non è stato possibile, sempre per la reticenza degli imputati nei processi e dei protagonisti politici in sede di commissione di indagine parlamentare, risalire lungo la catena di comando fino ad individuare i responsabili politici, i mandanti di queste mattanze. Lo sappiamo, lo Stato non processa se stesso, ciò nonostante è facile indicarli, quei responsabili, nei soggetti che all'epoca avevano responsabilità di governo, e non potrebbe essere diversamente. Per noi Genova non è finita e non finirà questo 3 ottobre. Continueremo a portare nelle aule dei tribunali la solidarietà alle e agli imputati. Continueremo ad occupare le piazze e a ribellarci contro lo stato di cose presenti. La solidarietà è un'arma. Continuiamo a sostenere anche economicamente gli imputati e le imputate per Genova 2001 e per i fatti del 15 ottobre. Quindi solidarietà a tutti loro, anche da parte di Radio Onda Rossa. Questo era un comunicato della campagna 10% e supporto legale congiuntamente, appunto, a proposito del processo di Cassazione che appunto ha mandato in corte d'appello 5 dei condannati per rivalutare o meno un attenuante. Ecco, questa cosa ci sarà oggi praticamente, quindi nella giornata da domattina in poi appunto daremo poi conto attraverso la radio pure degli esiti appunto di questo processo, appunto ricordando sempre che non vogliamo più vedere nessuno in carcere appunto per la repressione delle lotte sociali. Mezzanotte 46, siete ancora all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 MHz di frequenza. E questa è la delirante 25 o'clock. Questi erano i Cathedral dal loro disco d'addio, The Last Spire. facciamo ora un salto più di 20 anni indietro. Invece questo è il disco d'esordio degli Entombed e questa è la traccia d'apertura del loro Left Hand Path. We'll be right back. e dal classico del 1990 che è Left Hand Path degli Entombed. Ci spostiamo in Italia per un gruppo che purtroppo è attualmente disciolto, e loro sono i Grimness, e quindi nella speranza che si riformino a breve dal loro primo disco Increase Humanity Disgust del 2005. Ci ascoltiamo la terza traccia, Catharsis in Vain. Come all'improvviso e contro ogni probabilità, un capodoglio si fosse materializzato parecchie miglia al di sopra della superficie di un pianeta alieno.

E loro erano i My Sleeping Karma, dal loro ultimo lavoro Soma. Sulle note dei Tiamat, dal loro Wild Honey, vi andiamo a salutare perché siamo arrivati ben oltre la 25esima ora. E quindi tra poco andremo a chiudere le dirette di Radio Onda Rossa. Per darvi appuntamento con le trasmissioni del giovedì. E quindi dalle 8 con le prime pagine e la rassegna stampa. A seguire il redazionale. Ore 13, giornale radio. Dalle 14, visionari, trasmissione sul cinema. Ore 15, teatro Valle Occupato. Dalle 16, Attica Blues, oltre la black music. Dalle ore 17, la Eschina del Sol, Bella Martis. Alle 18.30 Profondo Rosa, la trasmissione sui movimenti LGBTQI. Non so se abbia ripreso Profondo Rosa, non mi è capitato di sentirla, però è in palinsesto, forse magari è iniziata, boh, me la son persa. E quindi 19.30 giornale radio. Dalle 20.15 è tornato, professore. Dalle 20.15 Mortimer, ce l'abbiamo? Ma forse ancora no, forse ancora no. Quindi auguri di pronta guarigione, Mortimer. Dalle ore 21 le repliche del nostro fagiolino in Noctibus Panis. Per poi proseguire dalle 22 con i nostri cuginetti di Apostasia. Naturalmente noi ce ne andiamo qui, appunto, chiudiamo come detto testè le trasmissioni in diretta di Onda Rossa, vi lasciamo in compagnia della compagnia Domenica Zara, non prima però di aver fatto il nostro saluto un po' più importante a tutti i detenuti e le detenute che si trovano in carcere, in carcere in condizioni di limitata libertà personale, gli arresti domiciliari, la latitanza, la clandestinità, gli obblighi di firma, chi più ne ha più ne metta. E in particolare appunto, i nostri tre compagni, e speriamo o non disperiamo appunto che non se ne aggiungano altri cinque, proprio a partire dal processo, dalla revisione del processo in appello domani per Genova 2001, oltre a tutti i compagni e le compagne appunto in qualche maniera costretti per aver partecipato alle lotte sociali, siano esse quelle della Val di Susa, siano esse quelle appunto contro le nocività in genere, siano le esplosioni di rivolta che ci sono state il 15 ottobre e il 14 dicembre dell'anno prima, sto parlando appunto del 2010 e del 2011. Dicevo, se volete intanto scrivere e ve lo raccomandiamo e ci raccomandiamo per non lasciarli soli, Marina Cugnaschi, presso la seconda casa di reclusione di Milano, Bollate 120 via Cristiana Belgioioso, Bolla, 120. Alberto Funaro, che invece è recluso presso la casa circondariale Capanne via Pievaiola 25206132 a Perugia, e Francesco Pugliesi, Jimmy, a casa circondariale di Roma Re Bibbia, nuovo complesso via Raffaele Maietti 70 00156 Roma, braccio G9 secondo piano. Quindi vi andiamo a salutare sotto la luna comunista. Bella. I'll share our dreams under a communist moon.